l'ultimo brano, lo vuoi sentire? CQ10, c'è qualcuno qua? CQ10. Canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10, cambio. Hola. Hola. Ma sono sul volume. Ciao, dai, sto ascoltando da altre parti, ciao. Ora, attenzione al canale 10. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Gambia. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, 4, 5. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Specialmente le dita dei piedi, guarda, da morire. Sono stato tutta la notte fino alle 4, poi alla fine ho preso un antidolorifico e mi è passato. No, io mi sono svegliato alle 6:30 stamattina. C'è un vulcano che mi stava ronzando vicino. E Angelo l'ho preso e mi sono alzato e... Dopodiché ho fatto colazione. Quello però ho fatto lì, come si chiama, lavato in terra, fatto il pranzo, fatto il pollo, dopodiché sono uscito 5 minuti a portare a lui a fare la pipì e poi sono entrato a casa. Ciao, e Simona come sta? Simona adesso domani la faccio controllare, la porto là, la faccio controllare, capito? Si vedono le costole, figurati. Dimagrita di un bel si vedono le costole, non mi piace proprio per niente, cioè, non c'è voglia neanche di mangiare, quindi io sto dando a forza, capito? Poi magari ha bisogno di qualche flebo, Ari, forse va a farla controllare. E infatti domani mattina la faccio controllare, vado lì e la faccio controllare, voglio avere l'incubo di quel giorno lì, hai capito? Sono giù sulla gara lì, tornavo come te prima, quindi sono venuti per la mia zona, là, voi immediatamente pure chiamo lui e la faccio portare di là, la controlleranno, la terranno lì, penso fino alle 8 e mezzo alle 10, non lo so, di notte. Gli faranno tutti gli esami che devono fare e poi decideranno cosa fare. Tu glielo spieghi il problema che c'ha. Fatti parlare io, grazie. gli spiego proprio che c'è e poi decidano loro. Sì, sicuramente la ricoverano per accertamento. Speriamo. Chiaro sai che là se le foto con le balle mi. Quando entri tra medici eccetera eccetera entrano verso le 8:30, 9:00, mi non ti credo. Io una volta sono entrato lì alle 8:30, 9:00 di sera e non c'era manco un cane. Fino alle 7:30, 8:00 del mattino. Quindi sono rimasto 24 ore lì buttato seduto, perché non c'era manco un cane. Poi alle 8:30 mi ha detto l'infermiera, si sdrai, mi ha detto, si mi sdraio, e cazzo mi taglia a fare, io ho detto scusi, fatemi la vita, devo farmi fare, detto, poi ho detto, mandatemi a casa, va a far culo, io ho detto a un certo punto, ma se avessi saputo non sei rimasto dalle 8:30 di sera, dice, ho così buttato, io ma non c'era nessuno, piacere, io non sapevo niente. A un certo punto, quindi se non c'è personale è colpa mia, gli ho detto. Io una volta mi sono fatto 3 cambi di turno degli infermieri, non ti dico altro, 3 cambi. Già me lo immagino, già lo so già, dalle 5 alle... Allora, entrano dalle 10 alle 6 di mattino, dalle 6 vanno via le 2 e dalle 2 vanno via le 5 di sera, 5:30 di sera se non mi ricordo male, non mi ricordo. E poi c'è notturno. Sì, ma con la volta lì, guarda, non me la voglio ricordare, alle 4 di mattina siamo andati perché lo zio della mia ex moglie praticamente in campagna c'era questo ferro puntato in terra, ha preso una mazzetta per romperlo, ha sbagliato il colpo, si è dato la gamba, gli si è fatta tutta la gamba gonfia, ma non voleva vista lì, era trasparente, sembrava un palloncino. Già me lo immagino. Già non so come quando capita così, purtroppo. E questo se l'ha fatto dopo pranzo, però per non disturbarci non ha chiamato, siccome lui vive solo, per non disturbarci non ha chiamato. E ha chiamato alle 4 di mattina, invece io il giorno dopo devo andare anche al lavoro, un casino. E io per tutto questo gli ho sempre fatto così, purtroppo. Mi sono rimasto lì seduto tutta la notte, cazzo. Figurati. Sono entrato alle 7:30 del mattino. Quindi adesso domani mattina penso la lavo, dopodiché chiamo e faccio portare verso le 10. L'ora giusta, 10:30, se va bene. Il segnale com'è lì? Fa passaggio? Guarda, avanti un trifora, adesso praticamente sono col matchbox. 9:10, oscillate 9:15. Col matchbox. K, sì. Perché se la metto normale va anche a 2, va a 1:52, dai. Ho capito. È strano che c'è tutte queste stazionali, mi sembra molto strano, con un'antenna nuova così che ti dia questi problemi. Secondo me c'è qualcosa di strano, la verità. Bisogna salire sopra e controllare tutto, con due portatili, PMR e uno sopra, uno sotto e ti metto che la bobina mi sto parlando. Cosa fai? Metto la bobina, bisogna provare a avere... Non è che puoi toccare la bobina così, no? E se la bobina non vuole toccata, si incasina di cazzo la taratura, il discorso è quello. Hai capito? Anche io c'avevo 1:05 di stazionale l'altro giorno, perché c'avevo l'antenna del malattino, l'altra, quella di Giovanna, a 2 metri di distanza, e la Mantova non sopporta antenne vicino, capito? Ma qualcuno ti ha messo l'antenna di TV vicino e... E vabbè, già si vedrà, dai, non c'è problema. se si trova l'anima buona che mi dà una mano, lo facciamo, lo controlliamo. Ci vuole la scala quella lunga o poi la scaletta quella a V portata sopra fino dove arriva per arrivare alla bobina, una volta che arriva la bobina poi si apposta. Poi con due bofenghe non ci vuole molto a controllare. Tu rimani giù, controlli le salse varie e l'altro rimane sopra, solleva e abbassa la bobina, ma mi sembra molto strano, se non c'era, se c'era uno fino a un mese fa, mi sembra molto strano questa storia delle solo le due. Io ho cambiato guardia, ho provato il tutto, ho cambiato il rosmetro che mi segna lo stesso, ho controllato nel rosmetro del Galaxy e segna la stessa cosa, ho controllato quello del Royce lo stesso, ho fatto il PL ed è la stessa cosa, per cui qua giù ho provato tutto. Papi di tutto. Mia, quel maniaco. A meno che non sia sopra che c'è il problema, senz'altro. Avanti, usa porco. Sì, briciola. Ciao già, ciao Antonio, ben sentiti, dai. Appesi di tutto, vedi prima. Ora io col massimo che sono 1,3 di stazionari, quindi col massimo che se riesco a regolarle come voglio io. Ma io avevo un po' detto al congelatore un po' stazionale, se ne vuoi, te ne do. Sì, gli vendono anche la crema per abbassarle. Parla di WC, di che la crema per le stazionarie, te la dà. Un po' di crema Blue Chacule che ti passa tutti i dolori. Blue Chacule. Non mi ricordo che me l'ho mandata a prendere con la crema lì. Te lo ricordi tu che l'avevo mandata a uno e l'hai andata a chiedere davvero per abbassare la stazione? E cosa le mandava? Come dice? Padre Francesco. Eia, tira sto cordone per avere la soluzione, te lo ricordi? Sì, già me lo ricordo. Ogni tanto lo vedo, non sempre. Vabbè, adesso non ci sto più andando al centro storico perché no. È pericoloso passare lì la vetta. Prima si poteva passare tranquillamente via la Marmora e non rischiava nulla, adesso invece devi stare molto attento. Tra la baby gang che c'è di lì e quegli accidenti di negri, capito? Non ne vale per la pena, se tu vai in Consolvito Emanuele non c'è manco un cane. Una volta quando in Consolvito Emanuele salivi, scendevi, era peggio di andare a, come si dice, a fare festa. Tutti fuori scendevano, chi andava al bar, chi andava a divertirsi. Adesso non ci può più andare, è diventato zona off limits, più che nigeriani e rumeni che si bisticciano non ci sono. Ehi, ma c'è come si rigura, sai tu? Bisogna fare una bella retrata e mandare tutti via, vero, gente di... Lo so, ma non è così facile, no? Hai capito? Siamo diventati peggio di Roma anche noi. Magari passa qualche imbecille al cazzo che dice soldi, se ti ferma con una bottiglia in mano, spaccata, cosa fai? Dici dammi il portafoglio. Cosa fai? Lo picchi con un calcio alle palle. Poi andare con un manico di coso, di picco. Oppure qualche cosa, ma vatti arrivare a testa. Adesso su internet ho visto che vendono un attrezzo che si allunga in metallo per difendersi, tipo un manganello in acciaio. Si allunga come fa il coltello a scatto, fa così, parte di colpo, giù, mi ricordi a capo. Ah, quello l'ho avuto un bel tempo fa, quando abitavo in Vizio ce l'avevo, poi gli appena non so che fine abbia fatto fare. Quello che c'avevo io era rigato, sembrava un tubo d'acqua, si arrivava a quello da 60 centimetri, si allungava quasi 2 metri. Quello lo uso quando sono ubriaco per leggermi. Breckers! Avanti! Qui, buonasera! Tu che mi fa parte? Buonasera, Antonio, anche a lei! Che fammi, sono della maglia indietro! ho fatto 24 ore oggi, ieri. Oggi verso le 11 va a fare un montaggio perché ero grippato oggi. Ho fatto anche la cavalcata stamattina. Le passavo il microfono ai gruppi e cose. Quando mi ero una guarda qui su cazzo di organetto. Perché oggi stasera non fate balli lì a qualcosa. Stasera le bloccarelle sì. Il dubbio è stasera, cappa. Io, come si dice, io sono andato con il camion, non ce la facevo più, stanco. Moro, io stacco molto, vedo. Ma stasera ci devi tornare? Sì, stasera sì, devo fare lo smontaggio, devo fare. Cosa c'è stasera di complici? I bimboi, cazzo, ieri hanno smaccato, ieri era un po' misto, era, ieri c'era anche Piero Marras, c'era, le Valentes, un bel di gruppi c'erano, e poi c'era Bucconi, c'era un bel po' di Giuliano Ras, un bel po' di gruppi. Ah, non ci sono solo balissati, stasera. Ah, sarà bello un bimbui, beh. Che vuoi dire bimbui? La gente è già cominciato. Cosa canta bimbui? Ah, non lo sai. Per esempio, mi sono un gatto di organetto. Così. Ma poi un po' carico mi piacciono i gatti, il re mi piacciono. Diciamo che... io proprio li odio, ma è almeno una paranoia essere musica. Lo so che è una paranoia, pure io, pure a me mi piace questo tipo di musica, però vabbè, a me piace Piero Marras, Piero Marras, di Tarzenda, cioè, mi piacciono, rimango sul rock, rimango, cioè musica bella da ascoltare. Piero Marras mi piacciono le vecchie canzoni di Giotto Maria, tutte quelle lì. Quelle di adesso non è che mi piacciono assai. I Tazenda sì, Tazenda mi piacciono, ma li preferivo quando c'era Andrea Parodi. Quelli sì che erano i Tazenda, i veri Tazenda. Ah, ma dico la verità, ti dico. Anche a mappacci sono. Cioè, dico la verità, tutti dinni che già... Perché io sento in concerto e quest'anno sono partiti col tour di un po' di tempo fa, partiti. Sono bravi, ma la voce di Andrea Parodi è inimitabile, capito? La voce che c'aveva Andrea Parodi, ci dà giù, non vedi niente. Sì, tu Nicola Miti, Nicola è bravo a tutti dire. Poi quando ci sono loro, è a Magna e a B, di brutto. Quando mi sono vedi. Anche nei turni era bravo, però non sono mai a livello di Andrea Parodi. Andrea Parodi aveva una voce particolare. Sì, vabbè, De Turi comunque è una persona che sa cantare, ragazzi. Anche questo Nicola, molto preparato, molto tutto. Lascia stare, va. Sì, bravo Andrea Parodi, ma chi c'è bravo? Chi c'è un bel bravo come a te? Questo è di Alghero, no? Sì, Nicola, sì. No, non ci hanno sentito, io è bravo, no? Io non sto dicendo che non sono bravi, anche le letture erano bravissime. Ma quella di Andrea Parodi è una voce particolare, è soave, non lo so, una cosa indescrivibile. Chiaro. E arrabbiamo. Ma non è che io sia molto entusiasmante lavorare con i Tardetta, è la verità. Non è che mi sia molto simpatica la storia, ma chi vuole andare a Maglione, beh. E vabbè, tu, però quella è la cosa. Avanti, Atore. Vabbè, i gruppi sono quelli che sono, quindi, purtroppo. Poi vabbè, ci sono stati tanti di gruppi, ma di azienda era... Il Sole Nero mi sembra, si chiamava, poi prima di Sole Nero è nato siamo un altro nome, quindi figurati tu, hanno fatto cambiato un sacco di sono cambiate un sacco di persone, sono cambiate lì. L'unico è quando sono andati bene, sono andati bene come una della Paroli e basta. Poi c'erano i fratelli Pudic, eccetera, eccetera. Poi c'è che si è messo per conto suo, che ha fatto il suo lista, che si è messo per i fatti suoi. E ce ne sono stati dei cantanti bravi. Addirittura i fratelli Pudic hanno cantato anche con Gianni Morandi, immaginati. Uno dei fratelli Pudic che è figlio di Gianni Morandi, già lo sapevi, sì, quello. Cosa? Lo sto dicendo io. Uno dei fratelli Pudic è figlio di Gianni Morandi. Capito? Quello te lo sto dicendo. Io si non raccoccava, aveva pigliato l'apparecchio. Stavo usando il 48 poco fa, adesso mi ci sono raccoccato, mi sdraio un po' e da voi via, ando a travagliare. Solo sei anzi. Ma sì, solo. Gappa, dai, ma non ti rifugi un po'. Gappa, e cosa? Tra un poco, andassi a fare un vicino, tra un po' garito, e via, metto un po' di benzina alla moto, che adesso alla festa grande devo viaggiare a Porto Torres. Cosa c'è a Porto Torres di me? Camanna, no, devo viaggiare in Porto Torres di notte, cioè devo fare la guardia, sono il guardiano dello stand. Ieri eravamo in due, eravamo, c'era anche un altro guardiano, c'era, capito? Praticamente ti fa la notte in Kiwi e ti pagano, gli stand ti pagano per guardarle la roba, capito? Faccio fino a 10 euro a ora mi pagano, Fare bancarelle? Sì, già. Come ha fatto l'anno scorso, dai? Sì. Adesso ancora gli devono dare la postazione, devono darle. Non hanno ancora data in via mare, sicuramente sarà in via mare lì. O è granaio in via mare. Io praticamente cosa ne so? A Risetti, per esempio, fare un dai noghi a Risetti e arrivo lì perché non voglio viaggiare di notte, capito? Quando finisco a loro io sto al buio, sto e faccio la guardia. E dove dormi dentro? No, non devi dormire. Cazzo. Allora, ma la guardia è drome, allora te sei a casa. Te sei sempre una civetta, sempre a mai dente. E chiedilo a cosa se c'è ancora. Come si fa la guardia? Mica dorme lui. Ah, Emanuele. Lui sta tutta la notte di ronda. Abbassa le luci, abbassa e sta di ronda, deve sempre guardare. Mica ti puoi dormire e una cosa del genere. E se no ti rifurano i busti della birra e tutto. Se non sei attento. Ma dove siete pochi? Anche se arriva una greppa va di man bassa. Fate mamma, io nei miei stand non fate questo qua, ne che addirittura quattro ne stava sempre girando, c'era la moglie e lui, e io ne avevo due da controllare, capito? E ho detto il gruppo elettronico portalo da me, gli ho detto, e lo controllo io, il gruppo elettronico costa 1.000 euro, portalo da me e ci sono io tutta la notte. Pappagatta. Ma è? Mi hai tipo un pitbull. Vedrai come se ne fugge quello là, quando va a rubare la roba. Oppure ti porti pomponi o vedi come fuggono. Non furano nulla con me perché io sono molto sveglio. Uno era appena mai denti a Porto Torres una notte e sono uscito io, gli ho preso un raglio, ha fatto di un mano, non gli viene un collasso perché io sto al buio, capito? Buonasera a tutti, ciao. Buonasera. Non fa il fantasma. devi essere un fantasma. Ehi, sto facendo roba già, devo ancora stendere pure. Oh, che cavolo di guardia sei, scusami. Casa. Ui, ui, ui. Non ne ha gana, va giù, va tutto a male. Aspetta, avete parlato in due per la seconda volta. Ripeti, Antonio. Ho detto, se no che guardia sei, se non sei se non esci dal mistero la notte. Ehi, ma stavate, io sono arrivato adesso, stavate parlando di stand per cavalcate, San Gavino, roba del genere. Ma ho detto che io vado a fare la guardia di notte. Beh, se non li stand sarebbero depredati da qualsiasi cosa di passaggio, capito? Piuttosto, San Gavino quand'è? Settimana. Ah, tipo sabato e domenica prossima, più o meno. Ma Zani lo sa meglio di me. Dopo la Pentecoste. Rimane questa domenica. Dopo, perché hanno spostato tutto, la cavalcata l'hanno spostata in modo che non combaciassero la festa di San Gavino o la cavalcata, di modo che i turisti possano spostarsi da una parte o dall'altra. Giusto, giusto. Antone. Eia, dimmi tutto. Riprendete, tanto devo far roba qua. Hanno spaccato ieri lì da para, c'era la piazza piena, fatemi cantare niente con le canzoni della sassarese. Cioè, era stracolma la piazza ieri. Tutta la sassarisa, vedo la scena, cazzo, dovevi vedere la scena. Non ci prendo, mi piace me, l'unica che faccio è faccia di druta. Di Giuseppe Fiore. Ecco, la canto, l'ho fatta conoscere anche il continente e piace a tutti i continentali, Ma non sanno il significato. Beh, io glielo ho detto, il significato glielo ho detto io. L'ho tradotta io, quando me l'hanno chiesto glielo ho tradotto. Perché poi chi canta fa il salotto, la sera parla, no? E me l'hanno chiesto cosa vuol dire questo, cosa vuol dire l'altro. E niente, io glielo spiego. Anche quella canzone Cuore il vento, detta azienda, quella lì io la canto, me l'ha chiesto il significato anche di quello. Non so, quello in italiano non si capiscono, gli altri non si capiscono. Ci sono, te lo dice in italiano. Tu devi cantare Faccetta Nera. L'ultima canzone che canto, quella. Anzi, proprio non la canto Baruzza. Chi sa la canzone di Riguacci. Ui. E che fine ha fatto Manuele? Manuele Filiberto, che fine hai fatto? Adesso è fascista. No, credo proprio. Se è stato fascista, se è stato toccato come cosa, la seconda carica dello Stato, ci ha messo una roba tra lui e Craxi, Amamete c'hanno di tutto, c'hanno di più di Mussolini. Ingenuo per essere fascista. Andiamo a Mamete tutti, andiamo lì. Io la verità non assolutamente non sono un fascista, io sono per l'unione di tutti, ma c'è che non rompi le balle, cioè, la penso così. Ehi, ma se non rompono le balle, no? Non ce ne frega niente se uno è fascista, quello che è, se la può prendere in culo. La verità, gli si odiano anche le altre razze, odiano. Io no, cioè, purché non siano, cioè, io odio chi rompe, chi va ed è strane di terrorismo e cose, quelli no, con quelli divento proprio fascista, però se uno si comporta bene e fa la brava persona e fa i cavoli suoi, no, assolutamente. Io rispetto le idee di tutti, hai ragione tu. Sono per la pace, non mi piace la guerra, non mi piace la violenza, tutte queste cose qua. Io divento così quando vanno gli idee di terrorismo, di ammazzare gli altri, di ammazzare quelli, no, non li voglio manco, i terroristi. Cioè, per me andrebbero presi e fatti sparire nel nulla. Però se una persona fa la persona onesta, si comporta bene, tratta bene la famiglia, come siamo noi, normale, nessuno, anche se il colore della pelle è diverso, nessuno ha da dire niente. Sei un bravo cittadino, ti comporti bene, sei onesto, cioè no, non rompi le scatole, rispetti le cose degli altri, non c'è da dire niente. Quello è vero. Ha voglia. A tu come sono di cercare da te? Guarda a vedere, che ce l'ha te ne sanno mai. E cosa ti tocco? Insegnare. Un'antenna che vuole revisione, vuole vista. Stanno salendo le stazionali a 1.52. Sei sicuro tu? Cosa? Sei sicuro di quello che stai dicendo? Mica fa con lo smetro mio. E quello non sbaglia, quello che io non sbaglia mai. Tu sei a fondo scala, non ne è più in occhi. Io poco fa l'ho guardato e non ce n'è più. Allora tu, io ho usato due rosmetri, il rosmetro del Galaxy, il rosmetro del Rolls, sono tutti e quattro uguali come segnale. Perché questo motivo? E perché bisogna andare su a vedere, perché giù ho già controllato tutto, cambiato PL, controllato gli spezzoni, cambiato gli spezzoni, ho fatto tutto quello che si poteva fare giù, adesso bisogna controllare su. Strano, non ha mai dato nessun problema. Ma io penso che col vento si sia mossa la molla, che ce l'ha aggazzata, basta riavvitarla, regolare, riavvitarla e basta, tutto lì, è fatto il gioco. Penso che sia quello, mi auguro almeno che ce l'ha aggazzata, perché se no guai. Sicuramente dove c'è lo stub lì, irritare tutto è a posto, può capitare. Però per saperlo bene ci vuole uno strumento buonissimo, concreto. Vabbè, ma sicuramente si sa, magari col tempo. Quanti anni c'è piazzata lì sopra? Pochissimo, nemmeno 2 anni, 1 anno e mezzo. Qualche catatina si è spostata, non è niente in particolare, non si faccia di Sant'Enna, non ti preoccupare. Buonasera. C'era lì. Certo, già mi siete già mette più passo, leggermente più passo. E lo so, perché sto andando con un matchbox per regolare stazionaria, sto vinciando. Sì, è fatti la pena allora, perché se hai fatto tutto quanto quello che hai detto è la stessa cosa, fatti la pena, qualche motivo ce l'ha. Adesso per qualche fattura faccio qualche spedino del capo. E boh, vabbè, dovrò salire e vedere, controllare. Quando ho tempo lo faccio. KK. Avanti, Alessio. Ciao Tony, ben sentito. Ciao Bombucci, aspetta, non ti ho sentito, solo lui sentivo. Vedete, tanta gente c'è, comunque sente che salutata, che gli ascolto. C'era anche 5.000, non è sparito. Chi c'era? 5.000, quello che chiami tu. 5.000, già lo sai che lui trabacca a me, riposa a me, mangia a me. E tra proprio parito. Si sposta per mangiare, nel tanto. Ah, ecco, quindi deve rifornirsi il sistomaco. Si prende a tu. Che cappa, non lo so. Già rientrerà se il coso. Ma con quanto ce l'hai già, eccezionale? Ho capito, Tori. C'è un po' qua sul microfono. Aspetta un po' che abbasso un po'. Ecco. Ho detto, con quanto ce l'hai alle stazionali? Ma da 1.5 a 2. Sì, ma io le sto regolando con il matchbox. Ce l'ho 1.2 adesso. Se per dire faccio così, guarda il segnale. Guarda il segnale, così sono quasi a 2 di stazionarie. Guarda il segnale, si è alzato, si è diminuito. No, sempre lo stesso, cioè. Ma forse un'alternata. Ora è d'ora a 0, buccia. L'alternata c'è perché le stazionarie salgono, è normale che ce l'alternate. Ma qualcuno non lo sa. Qua sei sceso un pochettino, eh. E vabbè, ma è meglio che scenda piuttosto che mi entri una stazionaria in radio. Le antenne ci sono sempre, ma in radio non ti entrano, capito? Vedi, segnale se più passo, già. Ho trovato l'antenna al capo, non ti importa di altro, già. Se hai fatto tutti questi accorgimenti, tutto a posto. Più cambio del cavo dell'antenna non potrebbe dipendere sopra. E lo devo fare, non c'è problema. Non farò domani, dopo domani, lo faccio, non ti preoccupare. Se purtroppo colpo di vento sicuramente ha fatto quelle quelle cariche di vento allucinante qua. E magari ha spostato la molla. Da ieri è iniziata la tempesta solare, quindi non c'è mai che c'è pure l'antenna nucleare. Adesso stanotte me ne vado a vedere le bancarelle, che non hanno più il sud, ma che la cavalcata. E neanche io la cavalcata sono andato a vederla, che non mi interessa proprio, non mi piace proprio. E poi bancarelle. Guarda, ci sono più extracomunitari che altro, non è più come una volta. Sì, ma c'è anche spettacolo, devo vedere qualcosa di diverso, non devo stare più in casa. Fai bene, fai bene. A piedi, così almeno sono tranquillo. Va bene, a piedi, qua non va che da casa tua a piedi pizza cavalcata, no? Pizza bancarelle. Era bancarelle. E poi da casa tua a piedi fino alle bancarelle. E perché? Non è la prima volta che vado in piazza d'Italia a piedi da casa. Sì, che pizza no. Vabbè, da me viene più difficile di te, dai. Tu devi fare un po' di strada in più. Antonio, tu puoi pure, non ci vai a vedere bancarelle. Non posso io, ci siamo là che non fa bene. Quindi devo stare qua. Non posso andare a bancarelle e poi mi trovo Simone in terra. Capito? Quindi adesso fra 5 minuti vi faccio la cena, poi noi mattina appena mi alzo la lavo e poi la porto a pronto soccorso a farla controllare. Capito? Non fa bene, non fa veramente bene per niente. E chi? Simona? E io. Cavate già. Non ne manca mai. Una tribolazione che sta vinta. Antonio, ho sentito il bip tuo. No, non ce l'ho il bip. Sono a letto. Ma no, l'altra radio è spenta, sono a letto, sono in quella del letto. Ho capito. Gianni, hai sentito quel bip quando sono apparato proprio io? No. Ce l'ho io il bip, tu. Allora, e tu che hai dato proprio questa preparazione di Popugno? Sì, magari, siccome c'ho il pugno sopra il tasto, e magari l'ho toccato involontariamente. Andiamo bene, vedo, io la cena ce l'ho già, 2-3 spaghetti con i frutti di mare, 20 pellica. No, io oggi ho fatto Malloreddo alla Campidanese e poi il budino c'avevo, quello l'ho fatto io, le polpette, insalata e tiragampà. Mica il budino ti fa male, c'è troppo zucchero lì. Già lo so che mi fa male, anche a te ti fanno male i luci, pure li mangi. No, io non li ho mai mangiati, sto mangiando gelati corretti. E voi dateli tutti a me. Una diabete più mangia dolci, ok? Guarda, mi mangio tutti i miei, tutti i tuoi e tutti quelli di Gianni, mi sacrifico per voi. No, se ti metto il gelato che ci ho qua, a te ti viene un diabete galoppante. Ma io non faccio con gente a pranzo, tu ho fatto, non ho usato un pezzettino, non è che ne mangi chissà quanto, l'ho fatto perché avevo gente a pranzo. Ma dove? Ma con la scusa l'hai fatto, c'è gente a pranzo, ma era con la scusa per mangiare anche tu. Guarda che domani mi preparo un bel sughetto a ragù domani. Alla spicchimento l'altro giorno me ne è avanzato, me l'avevano preparato, catta cantera buono, riposato. Poi ho fatto gli spaghetti, me li ho mangiati col cuore qua. Io ci ho messo le polpette nel sugo. Che buono! Oh, che buono! È veramente, era veramente buono. Tony, manco tu le svegli quando ci sono dolci. No, io le assaggio, infatti ho tre tipi di cornetto, poi ho molti ghiaccioli a sorbetto, che è tutto frutta, e poi ho cornetto alla panna, cornetto al cioccolato, ho fatto una bella provvista, così almeno ogni tanto mi viene voglia, una una piccola mangiatina me la faccio. Come non male che li assaggi solo, che te ne mangi un freezer pieno. No, quello fai tu che ti copri le vaschette da 2 kg e io non ce la faccio più, me le mangio tutte, perché se meglio quei confezionati, no, ti rimani tutti matrici. Intanto le vaschette da 2 kg non esistono, sono da 0,5 kg o sono da 1 kg, quindi hai già detto una cazzata, ma di chi si grussi. E poi sì, è vero, io ogni tanto la vaschetta me la mangio. Io l'ho vista. Però poi il resto senza mangiare dolci, mesi, capito? Io non è che mangio gelati tutti i giorni, io la mangio sì, la maschetta perché sono goloso, ma la mangio, te lo ammetto. Ma io la mangio gelato mangiato, comunque mi sono sbagliato in poco, il gelato alla maschetta c'è da 1,5 kg e sono scritti, te la faccio anche vedere. Dove vado io c'è da 1 kg da 0,5 kg. Per quelli sono poveri, non ne compro maschette da 1,5 kg. Poi c'è il supermercato invece la vedi da 1,5 kg. Io già l'ho comprata, c'è 1,5 kg io qua. È buono. Perché da mezzo non viene nemmeno da 2 kg, come ha detto lui. Lui ha detto 2 kg, poi non ha detto 1,5 kg. Cerchiamo di non girare le carte in tavola, ragazzi. Io ho detto da 2 kg, poco fa mi sono corretto, da 1,5 kg, e c'è da 1,5 kg. Marcolino, di nuovo, buonasera, riprendi. Io a 2,5 kg ho solo le palle, a destra e a sinistra. I miei 5 kg, mi prendi e me le date a me. Io già le conservo bene, che c'ho il pozzetto e anche il freezer grande per il frigo. Scelte una greffa di golosi. Chi sta parlando? Addirittura, così assai pesa, nega. Tanto bisogna pigliare una bilancia. Se prende una bilancia qua qualche persona. L'ultimo entrato mi pare che. Si prega di salire una volta. Cicomi, tu devi mangiare come? Ricci baghetti da 2-3 baghetti con la porta aerea, mangiare un pizzo per semane. Io dimagrito, 10 kg l'ho calato giù, Tu non hai dimagrito neanche al mignolo del piede. 10 kg in un mese ho calato, Come ha condizionato di più? Cos'è Artù? Come ha condizionato di più? 5 minuti stai fornando, non sta lavorando, ho capito la notte, quindi va a fare il pane, ecco perfetto. Quando suda scende di chili, capito? Con la figlia di Calvia. Ma 5 minuti deve mangiare perché deve acquistare energia per il lavoro che fa. L'Ufio è 5 minuti, con la figlia di Calvia, ce la conosce bene lui, ha voglia, quando esce mi rigonna. Lascia stare a Calvia. Sì, ma vado. Però male qua c'è io, sono io. Ah, per gli Stati Uniti, quest'ora. Come la faccia la Russia c'era. Non ci sei andata a cavalcata tu. Sì. Non ci sei andata a cavalcata. No, cavalcato qua in casa, capito? Ah, cavalcato in casa. Ah, andavano a te, sì. Che è meglio di cavalcare gli altri, sì. Andava vecchia. Infatti io ho perso il coso, come si fa, figurati. Ah, non ti cantate, Manuel, il caso è Manuacci. Sì. Come si fa? Non è che ci indigeno. Alexa è la mia ragazza, senti. E chi sa fare il cinese, che è? Alexa, ti ha capito bene? Non ho capito cosa hai detto. Ma qua c'è Marcolino poco fa che è entrato. Chiedigli come si dice carbone e gatto ad Alessa che ti risponde. Oh, l'ha detto, come siamo lavorati di te? Per il momento non siamo compatibili uno con l'altro. Dimmi come si dice carbone e gatto in tedesco. Elfria. Chiedilo che ti risponde. Aspetta, lo devo collegare al telefono, che la connessione è attaccata. Cosa vuol dire con Rondone se ti risponde? E devi dire come si dice carbone e gatto in tedesco. Un attimo, se collega te lo dico subito. Ma ce l'hai collegato al cellulare? io wifi non ce l'ho a casa. Alexa, come si dice in tedesco carbone? Carbone, mi devi dire gatto e carbone. Come si dice Alexa, gatto e carbone? Alexa, come si dice gatto e carbone? Ok, ma in quale lingua devo tradurre? In tedesco. Mi deve dire come si dice in tedesco gatto e carbone. Ui, mamma mia, gatto, Alexa, gatto e carbone in tedesco, come si dice? Non si non parla più, boh, l'avete fatto incazzare. Cazzo in culo. Si carga a me. Si dice cazzo in culo. Gatto in tedesco, Alexa, gatto in tedesco, come si dice, è carbone. Ehi, sto cercando di cercare, è carbone in culo. Gianni. Tu. Gianni. Buonasera. Tu l'hai sentito da me. Gianni, ti ho chiamato la bassa e non mi risposto. Oh, so così. No, sta caricando, Tony, è dentro il cucino, aspetta. Cazzo del culo. Caccione! Cazzo può caccione Alexa! Alexa! Puglia canto casino! Chi sei Alexa? Chi sei tu ricoglionita? Io, per carità! E Luca, buonasera. E beh, ha detto che lui che rimane in cuffia, cazzo, qua, come è complete, ma tra l'altro con un mazzone. Ah, cosa, io sono mazzone di stazione, non mazzone. Io ho il servizio, ho fatto dalle 7 alle 14. Adesso appena fanno la, come si chiama, la riunione, mi chiamano e mi danno la divisa anche a me, devo fare il giuramento, così collaboro con loro. Ma dove è il giuramento, Luca? E devo dire da fai fuzza, perché loro collaborano con la polizia municipale, capito? Lui è cazzo tutto bruciato in faccia, in capo, uscito di grazia, mi dai, senza bruciatura la cantiere. Ma lo è, a me questo come devo andare a dirlo prima, sono un di merda, fa carizzare, pucci, meglio la morte, cazzo. Quello poco ma sicuro, stai meglio sì. Quello sono lavori di merda veramente. No, lascia perdere Emanuele. Adesso mi vuole questo qua, Candigione, a fare la guardia, ma lui. No, no. Già trovo, non dico qua, magari boh, qualcosa ad Alghero, qualcosa. Adesso porto a Torres. Anche se non è qua, non me ne frega niente, però. Almeno sono vicino, posso viaggiare tranquillamente, tornarmi a casa, dalla famiglia, è un casino, non fa. Poi stagioni così, stare in un locale in quattro, bruttissimo qua. Era proprio un incubo stare qua a casa. Casa, sarebbe già in casa. Io non accavo un locale. Corri più un po' così via quei droni. Ascolta a me, a Carregione che azienda è? Perché noi ci abbiamo anche quelli lì ogni estate. Non lo so come, lui si chiama Franco, aspetta. Ma sai chi vuoi? Sì, è di Santa Teresa. Di Santa Teresa è Franco, ho capito chi è. Ho capito chi è. Franco Prugnoli. Franco Prugnoli allora non è sassarese. Dalle parti della Sicilia. Ma come si dice? È di Santa Teresa. Lui è proprio nativo. Ah? Non è nativo però di Santa Teresa, vive a Santa Teresa. No, fa vedere lui è sardo, sardissimo. Cognome non è sardo, ma è di Santa Teresa lui. Ma lo conosci tu? Ah, certo che lo conosco, se fassi vita al Seven Pine, dove ero io. Sì, all'ingresso principale che all'ingresso degli operai. Ah, dove stavi lavorando tu che stanno cercando? No, per tanti giorni. Vai, fatela, cazzo, stai bene. Vedi, se fai turni come facevo io, sempre nella zona dove sono io, cazzo, giravo con la macchinina la notte, facevo dalle 9 fino alle 4 del mattino. Ma sì, no, lì giri a piedi, cazzo, macchinina, loro giri a monopattino, ma la monopattino loro. No, noi c'avevamo la macchinina, quattro posti, cazzo, ma monopattino, questo cazzo è dopo un gurdo. No, loro la monopattino. Però lo stipendio mi sa che è 1200. È buono, Luca, 20 alluggio, Sì. Allora è buonissimo, va benissimo. Sì, boh, se vedo, tanto che mi chiamava, non mi ha chiamato. Io non gli alloggiavo, faccio dedicare due un paio di posti. Adesso non lo cerco più. E tu, Anto, che hai finito ieri? Un po' lì. Gianni, chi sei? Ero in bagno, ero. Sei troppo sassare su, ti piace troppo sciare i nonghi. No, però ho detto non qua, anche ad Alghero, qui ci vado ad Alghero volentieri. Se mi avevi chiamato ero spino, non era andata alla riera a travagliare, che si ne ha fatti, cosa che è troppo sassare, se non voglio sciare i nonghi, non viene a travagliare i nonghi. Capito. E che l'hai finito ieri notte? Mangiamiri, vuoi dire? Ho finito alle 6 e mezza del mattino là, poi sono andato attorno là alle 7, poi abbiamo piazzato i radiomicrofoni, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro e abbiamo tirato ancora. Vuol dire che il letto l'ho visto io adesso, l'ho visto. Io ho fatto dalle 7 alle 14, da. Ma sempre camminando, tante torre, avvisare a quelli che vogliono sui cavalli di non bere la birra, ma qua non mi sta nemmeno di un affanculo. Ma non devi bere il servizio, se fai là, se si è arrivati noi, ok, se uno non deve bere nessuno il servizio, tutto questa è la regola. Ma è normale che non deve bere il servizio, è sempre stato così. Perché noi ci siamo limitati molto, prima bevevamo per la fatica, cioè per la rete di fatica, mi compreso. Adesso non più, anche noi è molto limitate. Perché non fa la domanda lì a Nuorese o alla Vigipo o alla Coppa Servi? Adesso vedo, porto il curriculum, vediamo un po'. Ma cosa devo fare per forza, Manuele? Tu sempre di là sei a coso, a mancare, cazzo. Qui c'è il calcio, la mancare, qui c'è il passi, va, dopo il passi fa, a tocco reale. E fai da lì, che ora li fai? Li fai 8 ore, li fai dalle, allora, sempre turni, o fai, allora, facciamo, dalle 6:30 al mattino, 2:30, poi se secondo turno è dalle 2:30, 10:30, il terzo turno è dalle 10:30, 6:30 al mattino. Alla fine devi solo controllare, basta che devi camminare, giusto? Se cammina, il cazzo che arrivi lì, apri il cancello, c'è il gabbiotto, l'ufficio, l'ufficetto che sta lì, in scrivania, ogni tanto ti fa un giretto così, per sentirti le gambe, che è il cazzo tutto di busato, no? Ti fa un giretto così e poi ti do la busata, ti guarda la televisione, ti porta un tablet, che cosa. Gli occhi aperti. Ho capito. Adesso vediamo, dai, devo valutare adesso, per questi giorni domani devo uscire a fare con questo che stanno cercando un manutentore lì a Plattamona. Ho fatto entrare un amico mio, adesso metà mese lo prendo. Adesso vediamo, Manuele. Certo, con te prendo pure senza travagliare, mancata d'altro, va bene quello. Sempre gli occhi aperti, Manuele. Sempre andando, quel lavoro si fa così. Quello sì, c'erano 20 anni quando ho iniziato a fare quel lavoro, ma no, qua a Sassano, a Milano, nei blindati. Ma lì devi, non è che devi stare con lo ciabesse, no, spalancarti in chi vi deve stare, perciò stai attento, ma molto attento, che non è, è ancora più brutto lì. Lì devi avere il cuore, se sei debole di cuore quel lavoro lì non ne devi fare. Ma sì, quindi le palle ci vogliono. Stare così e poi devi stare attento, cioè devi stare molto attento. E non ti avvicini a nessuno, siamo che vada anche Marazzucci, lo sai meglio di me tu. Lascia perdere che io quando mi avevano appena assunto era ancora di gavetta, tanto mi stavano sparando addosso, ho fatto il corto di notte, il giorno di Natale, non ricordo, no, di Capodanno era, tanto un'eva, un freddo a Milano, tanto se non facevo come ho fatto, ma vi è parlato il nato, fumato, ma vi è parlato il nato, anzi, zera mi è parlato il nato, uno con l'altro. Purtroppo, no, come ti dico, cazzo, che ogni azzorra, rimani addormito, ti vecchi anni cicco, ti vecchi anni, cioè, e poi l'hanno avuto rane, cioè, sono lavori che non ti puoi permettere neanche di avere neanche 10 minuti di sonno, neanche, perché ti riponiva la roba, cazzo, e poi ci rimetti tutto. Questo lavoro qua deve stare attento. Sì, ti si possono calare gli occhi, ma dorme sveglia, fai, ma non hai diritto a quello. Assolutamente no. È un casotto. Poi dove sono io adesso, vi sono romeni, cazzo via vai con il rotto, finta di ferro, perché c'è il coso di Busa lì vicino, Rocamaio. E quindi cazzo questi qua vanno avanti e indietro, sono venuti anche i carabinieri. Che ce li hanno mandati via, va torna sotto la guida, ma non la guida sotto la danocchia. Sì, che non scappano mai, occhi aperti lì adesso, soprattutto, già lo sai meglio di me, non bisogna che ti dia nulla, non bisogna che ti dica niente, lo sai meglio di me. Ok, dai, io mi ha fatto piacere la chiacchierata, ci sentiamo, ciao a tutti. Ehi,